E siamo tornati in diretta. Io, meno male che me ne sono accorto che era tornato il volume live dallo studio. Sono le 18:14 e siamo sempre in onda qui da Radio Panorama, dallo studio di Termini Imerese. Andrea, volevo parlarti di una mania che è imperversa. Penso sì. Che tu saprai di cosa sto parlando, immagino. Toccarmi il sedere con la tua mano mentre ti appoggi. No, io non volevo sgabello. A parte che se questo è il sedere, io dovrei controllarti che c'è qualcosa di strano nella tua anatomia. Però, vabbè, io parlavo di... Ah, dai, qual è il tormentore del momento? Il gioco a cui Razzol tutti... Razzol, come lo dico io, Ruzzle. Sono troppo forte. Tu lo dici veramente, Ruzzle? Ruzzle è più bello. Giochiamo a Ruzzle. Compa, l'hai visto che l'ha detto che era da manicomio? Ruzzle è più bello. Sembrava preimpostato per dire questa cosa. Perché Andrea razzola male. Allora, ragazzi, regista, non ho parola, vabbè. Comunque, chi di voi, ad esempio, si sente un gran figo? Diteci i punteggi che fate, ad esempio, al 380-7690204 sulla pagina che dicevo prima di Facebook, facebook.com/londainonda. Che qua razzolo è diventato motivo di rivalità in famiglia, fratelli che si ammazzano, sì, sì. Tipo la moglie sul posto di lavoro che contatta il marito anche per tenerlo impegnato ad evitare le corna. Ed è il paroliere del 2013, per chi non lo sapesse, questo giochino è un'applicazione, nella quale appunto hai un quadrato di quante lettere, adesso non ricordo, di 16 lettere, e tu devi comporre più parole possibili. La cosa che fa paura è quando alla fine del gioco ne trovi tipo 25. Bravo, hai trovato 25 delle 396 parole. Ma sono in tre lingue. No, adesso ce n'è così tante. Ah, perché ti mette... Ah, quindi nel conteggio ti dà anche... Ovvio. Perché io sapevo che potevi giocare anche in inglese, in francese, ma lo devi chiedere prima, invitare l'amico a giocare in un'altra lingua. No, se di suo, senza nessuna richiesta, mi pare che sono tre lingue. Ma beh, scusa, sono inglese, e quindi inglese, tu mi dici spagnolo, che quando si... Non è, inglese non c'è, c'è spagnolo, tedesco. No, secondo me ti sbagli. Non è possibile, scusami, che si facciano le parole in, così tante parole inglesi con tutte quelle vocali. No, non solo inglesi, ci sono spagnolo, tedesco, ma italiano, nelle stesse tipo. Partite. Nella stessa partita. Ma veramente a me Giorgio ha detto un'altra cosa. Vabbè, niente, scusate, pensavo che... Disinformazione su Razzol oggi a Radio Andrea Panorama. No, non lo so, dicevo, continuate questa discussione. Sì, era interessante, era interessante. Uscite fuori, ne parlate, va tornate, bene, se voi volete litigate. Dirci il vostro record di Razzol, dite ce l'ho pure. Andrea, dimmi tu. No, volevo dire che alla fine si è... Dici tu. No. Si è evoluta, no, diciamo, le conoscenze anche tra i ragazzi negli anni, come si sono evolute. Io ricordo tanti anni fa IC6, poi IMSN, Facebook, hai WhatsApp, adesso hai Razzol. È vero, ma gente chatta sul Razzol. Sì. E si arrabbia se ti invitano alla partita e tu non inizi subito a giocare. Antonio, dove sei? Gioca con me. No, ma tra l'altro, per chi è fan della pagina Facebook, io odio i maniaci di merda. Sì. Ci sono anche buonasera degli... ai bambini. Tornando al discorso degli screenshot, ci sono degli screenshot dei maniaci di merda che adesso contattano anche via chat di Razzol, che ho scritto: ehi bella, vuoi farmi... insomma, sì. Hanno creato anche sputtanati, un video. Sputtanati, sì, chiaramente, sì, sì. Ma su questa pagina di Facebook. Hanno creato anche un video, non so se l'hai visto, sui vari tipi di Razzol maniaci. No, quello che ci visto. Prova con la scusa: ma sai che sei brava, ne indovinate più non di l'ho me visto, non l'ho è carino, visto. È carino, lo vedrò. Te lo consiglio. Allora intanto diamo subito il nome della nostra classifica di oggi, che sono i 10 modi per festeggiare dopo aver passato un esame dedicato, insomma, a tutti gli universitari e, tra l'altro, periodo e a di chi esami. Tra l'altro ci andrà all'università a breve e dovrà passare l'esame di maturità. Eh sì, prima l'esame di maturità, poi il test. Oppure di lo dedichiamo a tutti quelli che vanno a fare l'esame del sangue e magari scoprono di avere i valori e a posto. Hanno passato l'esame, sì, e lì c'è l'applauso del pubblico. Salutiamo Peppino Chicapri, che è sempre dietro il vetro. E allora cominciamo con la classifica, oppure hai dato solo il titolo? No, diamo soltanto il titolo. Iniziamo fra pochissimo con la classifica. Io direi che abbiamo il tempo velocissimo di spararci una notizia di quelle importantissime che tengono col fiato sospeso tutta la stampa internazionale, nazionale e anche provinciale, possiamo dire, no? Sì, anche del comprensorio, ma anche sì, quei giornali, sai, quelli con 2000 pubblicità e una notizia, esatto. Tutti solo col fiato sospeso. Questa sì. È una notizia veramente importante che ha scosso l'opinione pubblica in tutto il mondo. Donna incinta si ricopre di bolle, è allergica a suo figlio. Non la conosceva nessuno. Vabbè, però... allora ci sono alcune, vabbè, poi te lo spiego, è una questione medica un po' da approfondire. Comunque, c'è la foto di questa neomamma che è ricoperta di bolle ed è una mamma della Cornovaglia, cioè la Cornovaglia praticamente è nata a seguito del rapporto tra questa signora e un'altra persona. Sì, la Cornovaglia probabilmente si presuppone un che cervo. Non sia stato nemmeno fedele, insomma, no, il marito di Cornovaglia, cioè il padre della Cornovaglia. Esatto. Stiamo degenerando. Secondo quanto riportato dai medici locali, sarebbe allergica a suo figlio. Sembrerà impossibile da credere, eppure è tutto vero e documentato. L'allergia si manifesta proprio nel bel mezzo della gravidanza, ma alla fine il bambino bambino è riuscito a nascere e ora gode di ottima salute. Durante la gestazione il suo corpo ha iniziato a riempirsi di stranissimi segni, di stranissimi segni, delle bolle, quasi delle vesciche, che ne davano un gran fastidio, un prurito che non cessava mai. Dillo bene. La donna di nome Zuleika, ce l'ho fatta? Zuleika? No, non ce l'ho fatta. Zuleika Kloss. Stress, close. Così non puoi. Perché si prolunga. Si sgonfia mentre partorisce. Perché si sgonfiano le bolle, ovviamente. Sì. Pensava inizialmente che si trattasse di un accentuato sfogo di orticaria, ma dopo qualche tempo lo sfogo non passava. E lei si è sfogata col giornalista. Esatto, ma anzi tendeva a diffondersi per tutto il corpo sempre più velocemente. Aia. Non sono bastate delle cure antibiotiche e, delle particolari lozioni che le erano state assegnate dai medici. La condizione della donna non era variata di una virgola. A quel punto stava diventando ormai una vera e propria tortura per lei. Inoltre, erano tante le persone che temevano che le bolle fossero contagiose, tipo la peste. Sì, esatto. Motivo per cui suo marito ha addirittura perso il posto di lavoro. L'ha preso. Lui si è preso il posto. Sua moglie ha le bolle, assunto. Vieni. Se anche tua moglie ha le bolle, prenditi un posto di lavoro. Ma qual è la cosa? Il dottore ha individuato il problema e le ha diagnosticato una gravidanza autoimmune. Si tratta di una reazione allergica al feto, al bambino che aspettava. Cioè, nonostante fu poi trovata una cura a tale patologia, ancora oggi il suo corpo è segnato dalle cicatrici. Segnalato le cicatrici di quelle bolle. Abbiamo visto la signora, la volevo segnalare. E io giudice. Non si preoccupi, l'abbiamo messo a verbale. Per questo motivo la donna, che avrebbe voluto avere in futuro un altro figlio, è ora indecisa e terrorizzata all'idea di incorrere nuovamente sullo stesso problema. Eh sì, sono problemi. Va bene, allora, come aveva preannunciato Andrea, ci spariamo un altro pezzo. Sono i G-Luminers con Oh Hey. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Oh! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Oh! Sleeping in my bed. Hey! Oh! Oh! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Addio Fabrizio, adesso vai e insegna ai galeotti come si raccolgono le saponette. Sono le cose che iniziano a girare, carinissime, su Facebook. E siamo sempre qui con l'onda in onda. Senti un po', Andrea, a proposito di notizie importanti, importanti, sai cosa è stato scoperto? Guarda, scientificamente parlando. Il DNA a quattro eliche. Bravissimo. La cara Giulia Biffi, al Guido. Alla quale dovrebbe andare il nostro grande... la nostra grande ola qui si alza. Perché il Guido. Il Guido è qualcosa in più che dovrebbe andare, no? Alla scopritrice. Il quid diventa il Guido. Ha scoperto appunto che la struttura del DNA finora ritenuta solo a doppia elica, la famosa scoperta di Watson e Crick, che valse il Nobel, se non sbaglio, nel 62. Ecco, sto cercando conferma ed è così. Ha scoperto che in realtà si possono formare strutture di DNA composte da quattro filamenti. Questo dice, ma che me frega. Che metti che c'è caldo, no? Tu prendi il tuo DNA, lo fai girare e certo, girano le eliche del DNA e ti rinfreschi da dentro. Da dentro. Grazie. gratuitamente. Peppino Chicapri non può credere a queste tue parole. È molto importante perché? Perché comunque si pensa che nella cellula tumorale ci siano molte più strutture quadruple rispetto alle cellule normali. Quindi che succede? Che questo potrebbe portare alla scoperta di farmaci che possono intervenire per bloccare la quadrupla elica, quindi queste molecole sintetiche, e quindi bloccare la proliferazione del cancro. Ovviamente tutti parlano di Fabrizio Corona, nessuno sa chi sia Giulia Biffi, ma questa è l'Italia. Esatto, questa esatto, è l'Italia, ma va funziona a lei. Funziona così, applauso. Funziona così. Io invece vorrei ricordare come erano belli i tempi di una volta, quando eri fan di un gruppo, no? Ed eri semplicemente fan di quel gruppo. Non, sì, non avevi un nomignolo, no, che ti identificava. No. Adesso perché, invece... perché? No, non ti prego, non lo dire, che io ho paura. Ma cosa... perché adesso, siccome c'è anche il gruppo fan, non potevamo dire sei fan. È vero, sono fan dei fan. Fan dei fan, perché ti ricoverano. Io sono fan dei fan. Sì. Questo, io tipo vedo Andrea che è malato di un gruppo e io divento malato di lui perché mi piace lui come tipo. È ricorsivo. No, in realtà adesso si chiamano tutti quanti con qualcosa che identifichi il nome del gruppo. Quindi i fan di One Direction, abbiamo detto, sono i Directioners. I fan di, cosa. Di Justin Bieber sono i Biberon. I Beliebers. I Billy. Ma perché? Belli, scritto Belly Ebers. Sì, ma perché Belly Ebers? Non lo so. Non perché lo coloro che sono credono malati in Bieber, forse. Believers. So. Poi ce n'è un altro, è Selena. Non so chi sia Selena. Ma francamente... Questo credo che sia dopo la mezzanotte. Selena. Dal nome. Selenator. Io non. Ah, Selenator sembra un film. Selenator. Perché sì, la sorella di Terminator, che però invece di sterminare tutti a mi ha fatto così schifo, diciamo che non sono innalza, sì, che non sono riuscito neanche a informarmi su chi fossero le Serenator, ma credo che sia fan di Selena Gomez, che tra l'altro è Angre. Che Angre è un mezzo di patata. Sì, sì, sì. Ma senti, ma che ne pensi tu, Brummo, della patata, per esempio? Se dovessi dirmelo con, non so, con due parole, con una canzone. Viva la patata, e viva chi l'ha creata. Ma Sara non ce la fa più. È stata e sarà la salvezza dell'umanità. È sempre bello, ma poi vorrei sapere chi la canta, perché noi la passiamo. L'abbiamo però scoperto. L'abbiamo scoperto. E chi è? Non, non ce lo ricordiamo. Chi è? Non ce lo ricordiamo, te l'abbiamo detto. Ah, lo scopriremo. Solo vivendo, tra l'altro. Sì, lo scopriremo solo vivendo, chiaramente. Solo bevendo, nel senso siciliano. Vabbè, stai per dire qualcosa, Andrea? Sì, qualche notizia delle tue? Sì, ovviamente un'altra notizia importantissima che riguarda tutta la comunità del web. Addirittura più di 1 milione di persone si sono interessate a questa notizia. È veramente importante, una di quelle di cui non potete fare a meno, che passa in secondo, fa passare in secondo piano anche la scoperta della quadrupla elica del DNA. Io già vedo le facce. Sì, prego. Lei li promette, faremo sesso. Dilla bene. Lei gli promette, faremo sesso solo se raggiungerai 1 milione di mi piace su Facebook e lui mobilita il web. Vabbè, anche Peppino l'avrebbe fatto. Anch'io guarda, ho messo mi piace, devo ammetterlo perché... Aiutiamo questo ragazzo allora. C'è questo una ragazzo romantica, diciamo che non è proprio... Raul Bova, dello Antri. Non è proprio lui, non è proprio dell'oraltri in caso. Dell'oraltri, cioè, Raul sì. Bova è già nostro. Lui ha fatto la foto con un cartello. Con... Ah, è lei? Sì, sì, è lei, la ragazza. Che Catherine non è says that if I can get 1 million likes, she will have sex with Aspetta, me. Aspetta, c'è la ragazza che è in intervista, pronto? Ah, salve, come sta, signorina? Non risponde più, ce n'è andata invece di venire. Cioè, perché questa idea di questo milione di mi piace, signora? Allora, quando pensi di averne visti tutti i colori su internet, appunto, esce sempre fuori qualcosa che mai avresti osato immaginare. Mi sa che ha raggiunto 1 milione. Per favore, a giudicare dai suoni. Ancor più su Facebook, il più famoso social network, non solo mette in contatto milioni di persone sparse nel mondo, ma è anche in grado di spezzare una lancia a favore di ogni tipo di causa, nobile o meno nobile che sia. Quanti nostri amici spesso ci chiedono di mettere un mi piace a dei nostri link o a delle fotografie, magari per un concorso che sperano ardentemente di vincere. Io vorrei fare un appunto su questa cosa. Se me le mandate ancora, vi ammazzo tutti quanti, vi squarto vivi. Ebbene, Facebook può anche aiutarvi a fare sesso. Sì, avete capito bene. Ne sa qualcosa un ragazzo di nome Peter Knellerg. Cosa? Knellerg. Peter, scusa, Peter Kvenern. Kverneng. Hai visto che vabbè, però secondo questo è il livello esperto. Scusa, livello esperto. E questo è sul razzo, lo fai 70-50 milioni di più. Sì, 70-50 perché a scalare anche tra i 70-50 milioni. 70 milioni e 50 bombe. Che ha postato su Facebook una foto nel quale viene raffigurato lui nella quale viene raffigurato lui e una ragazza, Catherine Johansen, seduti l'uno accanto all'altra. Peter, sorridente, mostra un cartellone dallo sfondo giallo con il quale invita amici e non a mettere un mi piace sulla fotografia. Il motivo appunto è quello che se raggiungerà 1 milione di mi piace lui, Catherine farà sesso con lui, probabilmente nella convinzione che ciò mai sarebbe accaduto. L'impresa sembrava disperata, ma in realtà la foto ha raggiunto 1 milione di like e quindi no, insomma si si spera, sì. E quindi si insomma si fa. A quanto pare Catherine dovrebbe, insomma, dovrebbe maremma trascorrere la focosa notte d'amore. Sì, insomma, vedremo, ne sapremo di più. Io nei credo prossimi che giorni. Durerà 6 secondi dal momento in cui si inizia a spogliare. Va bene. Voglio dire, insomma, si sono fatti una bella pubblicità. Diciamo, sì, che il ragazzo, sì, io non gli darei una lira. Non gli darei neanche niente. Gli ho dato un mi piace. Insomma, è carina forse come capelli. Seguiamo il viso. Lascia diciamo un po' che sono di due persone simpatiche. Ecco, molto simpatici. E noi, da gran simpaticoni, prima di lanciare la pubblicità, ci ascoltiamo un pezzo dei The James Gang Funk 49. Ma restate con noi. Bravo. We'll be right back. siamo tornati qui dopo la pubblicità e questo pezzo di Chaka Ponk, My Name is Stain. Sai cosa vuol dire Stain, Andrea? No. Neanch'io. No. Vabbè, volevo solo avere la conferma. Salutiamo che Giorgio, soprattutto, che avrà sentito anche... Salutiamo, io salutiamo. Ho capito, sentiamo Giorgio. Perché salutiamo Giorgio che avrà sentito? In no, che dico, senso? Salutiamo Giorgio, no? Il nostro caro amico Giorgio. Sì, che avrà sentito cosa? Un fuori onda. Ma com'è possibile? Che è successo? Ma tu non preoccuparti, non preoccuparti. Cioè, avete lasciato il microfono aperto? È possibile. Per questo lui ha sentito possibile. Che io ho detto dei nomi a voce alta. È possibile. E se dicevo cose che non si potevano dire? Capita. Ma le dicevi tu, mica le diciamo, questo no? Questo è il bello della diretta. Il bello della diretta. Che non ma sei no, tu, ma è questo. Ma non avverrà in replica, perché noi ricordiamo che saremo in replica dalla mezzanotte alle 2. No, ma io non l'ho capito. Aspetta, fammi capire, non mi hai fatto registrare niente poco fa. Sì, beh, sì, no, ma tanto no, no. E allora com'è possibile? Dopo abbiamo dimenticato il microfono aperto. Ma tanto tranquillo, Andrea. Va bene, fatto va bene. Anche di peggio, non è un problema. Vabbè, quello ha fatto di peggio già nascendo. Comunque, vabbè, siamo sempre qua in diretta. Io non so loro cosa abbiano combinato. Un giorno mi spiegheranno. Senti, Andrea, qual è la tua serie TV americana preferita al momento? Ma ho finito Fringe da vedere. Di vedere da, da vedere, l'ho vista in sì. inglese l'ultima stagione, devo dirti che è molto bella. Sì, e un'altra che mi appassiona un pochino è The Walking Dead, ma non ho ancora iniziato Il Trono di Spada, che so che è molto bello. Mi hanno detto che è molto bello, quello me ne hanno parlato molto bene e quindi mi sa che lo seguirò anch'io. Te lo chiedevo perché, come ti anticipavo l'altro giorno, il 4 febbraio esce una grande serie, noi vogliamo consigliarlo a tutti i nostri amici fan delle serie americane. Il titolo è The Following, viene definita un social killer ed esce in contemporanea su Mediaset Premium e su Sky. Dicono sia la serie più attesa dell'anno. Il New York Post già ne ha parlato parecchio. Vabbè, quindi la sinossi di questa The Following. Ma io te ne parlo immediatamente. La sinossi di questa The Following è la storia. No, io lo so, quindi è inutile che ridi. È la storia di un serial killer. Io lo so. Cioè, io guarda, beh, ti vedo preparatissimo. Te lo posso giurare che lo so. Lo allora, sai. Come ti dicevo, viene definito social killer perché praticamente il serial killer è uno che quello che si può definire un Kevin Bacon. Yes, quello che faceva prima il cuoco da McDonald's e poi si mise a recitare. Certo. Kevin Bacon, famoso. Sì. No, non fa ridere. Non fa Peppino ridere, Di Capri. Vabbè, chiediamo se fa ridere a casa. Comunque, è uno Twitter addicted. Sai cosa vuol dire addicted? È uno che, come dire, ha assuefatto a qualcosa. Ecco, praticamente lui che succede? Che dopo che riesce a evadere dal carcere, sai cosa fa per vendicarsi di colui che l'ha fatto, insomma, buttare in gattabuia, ha fatto buttare le chiavi? Lui inizia a insegnare tramite Twitter i trucchetti del mestiere. Crea una sorta di grande, come dire, bacino di utenza a tutti i probabili futuri serial killer. E da lì cioè, parte una caccia spietata. Ah, ma che figata! È una gran figata. Dicono che è una gran serie, molto attesa. Molto chissà attesa. Cosa farà Corona quando uscirà dal carcere. Non si sa, forse insegnerà come fotografare. Si vendicherà di 3-6 che è possibile. Vabbè, vedremo, vedremo. Allora, intanto dobbiamo partire con la nostra classifica delle 10 modi da festeggiare dopo aver passato un esame. Io direi sì. di passare subito all'inizio. Partire, partire dal numero 10. Che noi sappiamo spiegare. Abbastanza, sì. Quale il tipo decimo è? Modo di festeggiare dopo aver passato un esame è tipo il signor Carosi, il la signor sua Carosi. Goffa corsetta. Dico, credo che il signor Carosi sia qualcuno che ha partecipato a un quiz tanti anni fa in Mediaset e che fece una famosa corsetta per festeggiare. Ora però non so esatto, più dire. Quelle sembrano le cabine di rischia di rischia tutto, sì, di sì, lascio sì. raddoppia. Cercate su YouTube la mitica corsetta del signor Carosi, Carosi se volete festeggiare come alla il... signor Carosi. Alla signor Carosi. Perché non esatto. si può correre come uno vuole, uno deve correre alla signor Carosi se vuole veramente festeggiare. Infatti è il decimo posto. Poi sì. abbiamo il nono posto, tipo Peter Griffin. Si dice che alcuni momenti sono talmente intensi e speciali da far sembrare che il mondo attorno non si stia fermando. Ecco, se fate... Il mondo attorno non si stia fermando. Noi, il mondo attorno a noi si stia fermando. Ma tu cambi il senso delle frasi. Però è bello perché il mondo non si ferma. Ma perché era più bello, come l'ha detto lui, era più bello. Sì, perché il mondo non si è fermato mai un momento. Ecco, diceva... se avete bisogno di una prova, non propriamente scientifica, della veridicità di questa teoria, è che il mondo non si ferma. Il mondo non è si ferma. È facile perché la mattina dopo c'è la mattina e la sera c'è la sera. Quindi se si fermasse, no. Noi finiremo a parlare del moto di rotazione mentre lui si fa una canna alle Hawaii. Comunque, in questa teoria c'è il metodo Peter Griffin. Attenzione, ci vuole un cuore tanto felice quanto colmo di fantasia e soprattutto l'esatta postura durante il gesto atletico del salto. Tutto si fermerà dando una torna lì. Quindi non so se avete presente Peter che salta dal divano, potete cercarlo su internet. Tutto si fermerà, come diceva qui l'esperto Andrea, il mondo si fermerà dando un'aria ancora più epica al vostro momento di gloria per quell'esame che pensavate di non poter passare mai. Intanto il nostro regista... Beh, ne prendo atto, visto che dovrò passare un esame prima. Che esame hai? Diritto finanziario. Dovrei passare, dovrei provare. Provare a passare. Però lui spera che un giorno lo passerà, che non è che può dare vita a tasse universitarie, sai come. Controindicazioni: non smettete di far lavorare la fantasia, perché potreste rimanere bloccati a mezz'aria. A meno che non pensate che il mondo non si stia fermando. Tipo Ibra. All'ottavo posto. Lo leggi tu che sei un esperto di calcio, no, vai. No, per favore. Ovvero il bullismo applicato al mondo accademico. Ricordiamo: spacco votile, ammazzo famiglia. Sì. Se l'opinione pubblica aveva poca fiducia nelle vostre possibilità di successo e avete delle spalle talmente larghe da incutere timore, ecco il metodo che fa per voi. Alto grado di soddisfazione ed elevato rischio rissa. Sconsigliato in presenza del prof o di qualsiasi altro membro della commissione d'esame, nell'ipotetico caso in cui vogliate seriamente laurearvi, che uno magari va a fare un esame solo così, per divertirsi, per gloria, per dire vado con i miei amici a stappare per un esame. Cioè, se non lo fai non puoi festeggiare. Ci faceva segno il regista al momento. Sì, passiamo subito al prossimo pezzo. Ascoltiamo i Black Keys con Gold on the Ceiling. Torniamo subito dopo. Oh, Buongiorno, entriamo in diretta parlando come DJ della California. Ehi, ciao, come stai, Andrea? Perché i DJ della California parlano in, tra l'altro in bergamasco? Perché? Cioè sembra non che ho... dice, ehi, andiamolo sopra. Senti Andrea, ho avuto il piacere, grazie a Peppino Chicapri, di ammirare, potresti prenderla un attimo, la locandina del nostro programma. Potresti aprirla un secondo? Non è del nostro programma, la locandina è la di Radio Panorama. La radio dell'offerta, ecco, che sta facendo. Allora, sullo sfondo una graziosa fanciulla, non proprio vestita, diciamo che è vestita solo delle sue mani, che coprono i due seni, e tutto il resto, insomma, è all'aria. In testa cos'ha? Una corona, una cuffia? Non si capisce. Degli occhiali da saldatore, delle cuffie. Ah, perfetto. Allora, questo è quello che c'è scritto. Io vi voglio leggere la parte più importante. Allora, ascolta Cine FM sui 106.4, 100.7, sì, qua ci siamo. Oppure stiamo leggendo come è scritto, no? Sembra di Torino. Oppure ascolta e guarda le nostre retrasmissioni. Cioè, ve la voglio rileggere, retrasmissioni. Cioè, perché la trasmissioni, no, la R è andata in inizio e sono diventate solo una la S. Quindi retrasmissioni su radiopanorama.info. Attenzione, ese, che è tutta una parola, ese, hai uno smartphone, ese, perché non è ese, ese, ese, ese, hai uno smartphone, ese, hai uno smartphone, sei canale, sei su gal canale. Per il resto credo non ci siano errori, o devo controllare più in basso. Oppure, no, non oppure, ci sono... oppure, mi piaceva. La colpa è mia, stavo facendo di fretta questa locandina e quindi ho premuto però, qualche tasto. Però allora cosa in più. Aspetti? Vieni da noi e andrai dove vuoi. Beh sì. Scusami, è lo slogan del programma? Non vedo Peppino. Non è lo slogan della radio, non è questo. Lo slogan è lo slogan della radio, scusami. Ma non è questo. No, non è questo. Appunto, questo è lo Radio Panorama, la radio dell'offerta che verrà fatta. Non è la radio che ti ama. Ma no. Come no, se lo dicono alla radio? Ma la radio, della radio. Tu mi vuoi fare diventare cretino, ma io ti capisco, caro. So più sveglio di te. Va bene, allora passiamo subito al nostro ospite della settimana. Credo di aver capito chi è, vado a chiamarlo. Presentalo. Allora, come sapete tutti, chi ci segue da molto tempo, lui è un medico nutrizionista, un ex medico nutrizionista che ha ucciso una persona per sbaglio, ovviamente, malata di ipertensione, dandogli la ricetta dell'anduia calabrese. Quindi, diciamo, nutrizionista era un po' una ciofeca. E per lavare l'onta di questo omicidio colposo, ha deciso di girare le radio di Italia per portare qual è la bellezza della cucina calabrese, tipica calabrese. E gira le radio del nord, del sud, le radio di tutta Europa, anche le radio oltreoceano. Ma il mercoledì riesce ad arrivare qui puntuale su Radio Panorama all'onda in onda e non possiamo presentarlo senza la sua bellissima tarantella calabrese, perché lui è Tony Scopelliti. Tutti in piedi, andiamo, in piedi, Scopelliti, si siete in ta macchina, tutti in piedi, fatemi no, una scopelletta. Tony Scopelliti, benvenuto, benvenuto. Per favore, mi abbassate, mi calmate, Tony. Caro Tony. Ehi, buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene, mi ha sputato in un occhio. Ma sui 18:51 come cane che mi dice buongiorno. E magari chi ci ascolta in replica, no? Ci ascolta la mattina. Ma come la mattina? La notte, ma la notte del giorno dopo è già ma mattina. Ma la notte? No. Bravo. Come diceva Arbore. Bravissimo. Che stress di giorno, che ma la stress, notte no. Esatto. Come sta? Lei sta sputando tutto il monitor. Lei è stressato? Come un po', sta? Un pochettino. Ogni la volta vedo. Che la vedo è un po'. Vuole uno schiaffettone? No, non lo voglio. Adesso mi sa perché ci manca. Chi mi manca veramente questa settimana? Michelino, sì, l'ho portato con me. Un attimo che lo chiamo. Michelino, vieni qua che ti vuole sentire Andrea. Parla al microfono. Ciao Michelino, come stai? Non ci si può lamentare, è intuitivo. Senti, la mamma come sta? Come ci scattò un cuore? Che dici? Perché ti arrabbia se ci fa male un cuore? Cioè, ti ha rimproverato. Allora ci parlo io, che tanto è mia sorella, perché io sono tuo zio. Saluta tutte l'onda in onda. Ripeti. Che carino, l'onda in onda, riciprono, si capisce. Va bene, la mattina a fare il docu. Allora, torniamo a noi. Allora, oggi vi portai un secondo. No, scusi, Tony, io stavo riprendendo posto al microfono e lei sta conducendo il programma al posto mio. Allora, abbiamo qua il piacere di avere Tony Scopelliti. Come sta, Tony? Ma tutto a posto. Va di quale ricetta ci parla oggi? Lei. Sì, infatti, di che ricetta ci parla? È vero come lei mi imita. Ma guardi, se lei non vuole venire in questo programma, vado no, in io vengo, radio. Ma mi piace fare pure un auto-intervistatore. Comunque, okay. Io stasera vi porto. Aspettami, pigliucciato. Crapit cacciofo. cosa? Crepitto e carciofo. Non ha senso quello che ha detto. Crepitto e carciofo. Cosa lei come è? Dice carciofo in siciliano? Cacoccioli. E qua si dice un carciofole. Ah, carciofo. Sono simili. Sono i carciofi. Sì, la stessa quindi, cosa. Capretto e carciofi. Esatto. Possiamo indovinare due ingredienti di questa ricetta. E allora capretto. Parliamo per quattro persone. Certo. Se uno di quelli che deve mangiare è il signor Peppino Chiecapri, che è una persona di presenza e di peso, io direi che possiamo mettere tranquillamente sei capretti. Da chi è di peso? Vada via. No. Mi intervisto solo, se ne vada. No. Comunque, allora prendiamo sei capretti. Sei capretti. Perché c'è in mezzo lui. Se no erano cinque. Sono cinque capretti. Esatto. Otto prosciutti. Otto prosciutti. Sì, sani. Ma i capretti sani non no, spara... no, ma quando manca manca arrivare la testa, tutto, le ossa. Con la lana. Sporpate, con tutta la lana. Poi ci vuole santa cipolla rossa di Giubea. Ma io mi commuovo quando pensi alla cipolla. Ma perché io sogno calabrese, con ne va ci può dare un centino, ma non ho capito. Vabbè. Poi tanto prezzemolo, sì. Se apre un fenocchio ci mettesse pure. Certo. Che si sa. E poi vuole occhio d'oliva. Mm-hmm. Non dico niente. Niente. Non la faccio la battuta. Stravergine, vabbè, lo sappiamo. Poi ci vuole struzzo. Quanto struzzo? Carne di struzzo, almeno 3 kg. Strutto. Ah, sì, distrutto. Mi sento distrutto dopo questa notizia. Comunque ci vuole tanto strutto, almeno una vaschetta. Una vaschetta di strutto. Vaschetta di tricchino. Poi farina. Ve la dovete tirare in da facci. Deve essere un momento di gioia preparare questo piccione. Perché è ancora vivo, quindi sgambetta. Esatto. Se ricordo piccione la scorsa settimana, l'ammazzai tutti, mi hanno denunciato. Sono in latitante. Tipo Fabrizio Corona, va. Sono tutti in latitante. Esatto, però tutti. Poi vino bianco. Sì. Non tanto importante, però magari uno del supermercato. Uno del 67, un 3.000 euro di bottiglia di vino. A così rettare come fosse nello. Sei capretti, comunque costa. Poi il capretto passava e quell'uomo che dava vino. Certo, quello allora, il carretto. Esatto. Poi ci vuole sale. Sì. Che non scende non mai. Non scende mai. Pepe nivoro. Sì. Nivoro, proprio marocchino. Marocchino. Cacciofoli. Cacciofoli. Esatto, tante. Cacciofi. Sì, con le spine. Con le spine. Anzi, dovete togliere la parte morbida e tenere le spine. Ma non lo so, il procedimento lo vediamo più avanti. Esatto, va bene. Allora, cosa succede dopodiché? Che io vorrei parlare un attimo con il regista. Poi ci vanno le uova. Sì. E un limone. E il limone. Adesso ve lo dico procedimento, me la quando carta e pinna. Carta bene, visto che conosce lei. Sì. In un tegame pigliate e fate soffriggere mezzo benza vasca d'olio d'oliva poco distrutto, un battuto di prosciutto, cipolla e prezzemolo. Aggiungete un capretto, anzi sei capretti, facendo rosolare. Spolverà... Sempre vivi i capretti. Vivi. Cioè i lagoduri, a vedere loro che dicono no. Beh. Micheluccio, tu che provi quando vedi un capretto che muore? Vedi, non sta bene, quindi i bambini lontani durante la preparazione. Beh, immagino. Spolverate con una cucciata di farina. Una cucciata di farina. Ah sì. Quando il cane si accuccia. Spruzzate con vino bianco. E dopo mettiamo una canzone. Perché mentre si prepara ci vuole una canzone. Salate e pepate. Cucite aggiungendo di tanto la in tanto. La tarantella immagino. Certo, quando si prepara tarantella calabrese. Cuocete aggiungendo di tanto in tanto dell'acqua calda. Lavate lui. Poi 4:30. Fate il riposino ai 6. Quando capita. Un capretto da cucinare è abbastanza esatto. Letto. A metà cottura carciofi a sticchi. Tenuti in acqua acidulata con succhi di limone. Acidulata è una delle parole più belle del mondo. Alla fine versate il tutto dei tuorli d'uomo amalgamate con succhi di limone e prezzemolo tritato. Voi mangiate e venite a fare un culo. Bellissimo, caro Tony Scobelliti, ma io so che lei ci ha portato anche un dolce oggi. Velocissimo, i mostaccioli. Cosa sono? Boh. Non lo sa. No, allora, si traducono così. Vediamo ingredienti non e procedimento. Non c'è uno sciolto. Allora, menzoleggio di maiale di fichi. Cosa? No, miele, scusasse, leggi male. E poi stringi stringi, si piglia la farina quanto basta. 4 uova, 100 grammi di mandorle, chiodo di garofano, buccia d'arancia e 200 grammi di zucchero. Amalgamate il miele di fichi con una quantità di farina sufficiente a superlo tutto. Aggiungete le uova intere, mandorle tostate spezzettate. E poi ci domandate a mia madre come se la vecchia sogno stanco. Ma come, Tony? Ma non si può fare così. Va bene, salutiamo Tony Scopelliti. No, non si canti la canzone da solo. Va bene, Tony Scopelliti ci ha lasciato. Queste sono le ricette, immagino le abbiate scritte tutti. Ma non si è, se non siete stati pronti con carta e penna, potete riascoltarla a mezzanotte con la nostra replica. Ma passiamo subito al prossimo pezzo. Ci ascoltiamo Teddy Bears con Cobra Style. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next turn fool. Press trigger me no press people button. No matter chat confuse me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next turn fool. Anytime you ready pull now we see start war. See who love is for the top but from the sky. The style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. The room boy don't care with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the bomb. we still sit down and watch your man a live. Watch your man a own now, who a roll big. Sit down and a plan for come put man for bridge. Remember when you dig one that who you fit in. Certainly for boy we are stop deal with. Give say them a friend and them bad mind the friend. My style is the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. A room boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. A room boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. Me press trigger, me no press people button. No bad a chat come face me with some. Like for me have 22 in a me sum. Them say them a friend and them bad mind the friend. Anytime me ready fool, yeah. Anytime stop. One or two take the long speech from the style. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. A room boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. A room boy don't play with the bomb, the dang, the dang. Mamma mamma mia, che la negritudine sia con voi. Alleluia, alleluia. Ti porta al centro del mondo e di ogni civiltà. Esplode nel petto, da adesso non ti puoi più fermare. Delete. sul ritmo dell'Africa. Noi siamo sempre qui sull'Onda in Onda. Due saluti importanti ad Antonella, che ci ascolta da Sanremo, il posto in cui fanno quel famoso la Fiera dei Fiori. Cosa fanno? Sì, sì, la Fiera dei Fiori. E basta. È la figlia dei Fiori anche. Quindi saluto Antonella, grande fan dei Coldplay e dell'Onda in Onda, spero. E poi salutiamo Claudia, che da Parigi stavolta si trova a Mondello, qua in zona, e ci sta ascoltando e dice che siamo ormai la sua compagna preferita del mercoledì pomeriggio. Poverina, è messa male, devo dire. È messa molto male. Ma noi abbiamo, il regista me lo conferma, abbiamo già diretta il piacere di ospitare qui ai microfoni dell'Onda in Onda per via telefonica Livia Ferri. Ciao Livia! Ciao! Ciao, come stai? Tutto bene, voi? Bene, benissimo. Non ci possiamo lamentare. Tu dove sei in questo momento? Dici dove ti trovi, cosa vedi davanti ai tuoi occhi, diccelo. Sono a casa a Roma e vedo la piazza nel quartiere di Garbatella. Porca miseria, a Garbatella mi fa impazzire. Salutami Roma che non la vedo da un po' di tempo. Bellissima, bellissima. È sempre bella. Oddio, per voi che ci vivete magari mi dici no, è il traffico, quello, quell'altro. Però devo dire che chi non ci vive vede solo le cose belle. Allora Livia, sei al tuo esordio, lo possiamo dire, giusto? Assolutamente sì. E come ci siamo arrivati a questo esordio? Quanto tempo è che suoni, che ti esplode una voglia dentro di pubblicare qualcosa di tuo? Che suono sono da tanto, diciamo abbastanza seriamente da circa 8 anni. E questo bisogno l'ho avuto qualche anno fa e sono riuscita però a concretizzare la cosa solo la scorsa estate. Ah, bene. E qual è il genere che sposi di più? Perché credo che ci sia un po', da quello che ho ascoltato, che ho avuto il piacere di ascoltare in questi giorni prima dell'intervista, un mix di diverse cose. Ma qual è il genere, quello che senti più, che si sposa ai tuoi bisogni, al bisogno di quello che ha, di dire quello che hai dentro? È una bellissima domanda questa, è un argomento sul quale cerco di non riflettere troppo, nel senso che classificare i generi, per carità, è giustissimo, però quando poi fai la musica non è, cioè, non mi piace tanto, no? E sì. Sicuramente c'è un po' di folk, un pizzichino, pop sicuramente, anche rock. Sì, possiamo dire che questi tre generi sono i principali che influenzano. Quelli che ti influenzano di più. Sì. Beh, devo dire che comunque, soprattutto per l'inizio della risposta, se era bellissima, come hai detto tu, io ti ringrazio, la mia domanda era molto più bella la tua risposta, perché non chiederselo e lasciarsi trascinare è indice sicuramente di un animo da artista, assolutamente. Senti, ma parlaci di questo album, il Taking Care si chiama. Sì. Come nasce, quando l'hai pensato, con chi l'hai scritto, insomma parlaci un pochettino di questo album. Dunque, questo album nasce, diciamo che il germoglio è stato gettato qualche anno fa, io ancora frequentavo il St. Louis, una scuola di Roma che ho frequentato, dove mi sono diplomata, e gli ultimi 2 anni ho frequentato questo corso di songwriting. E quindi ho cominciato ad esercitarmi in sostanza nel scrivere canzoni, e lì ci sono alcuni esercizi in realtà poi, ma a cui però mi sono poi affezionata e ho deciso di inserirli. E poi ho avuto 2 anni molto intensi e difficili, sia personalmente che e sono quelli in cui però nascono più cose, probabilmente sono dalle difficoltà, è sempre così, come diceva un certo De André, dal diamante non nasce niente, dalle dame nascono i fiori, quindi assolutamente questi periodi servono. Scusami se ti ho interrotto, prego, continua. E niente, in questi 2 anni ho messo su una band con l'aiuto del mio insegnante Lello Panico. E abbiamo cominciato a fare delle prove, ad arrangiare i pezzi. All'inizio ero molto in difficoltà, poi insomma ci ho preso un po' il ritmo e appunto poi gli eventi della vita mi hanno un po' mangiata viva, e la scorsa estate sono finiti, almeno il più grave si è concluso, e ho preso la spinta per fare quest'album che avevo in mente di fare già da tempo, però insomma l'ho fatto perché perché lo volevo proprio, ne avevo proprio bisogno, ecco. E sei proprio rinata, ti senti rinata, sì, in un certo senso. E noi siamo contenti, allora. In sottofondo, tra l'altro, mentre stiamo parlando con te, c'è una canzone molto evocativa, perché il titolo è In My Dreams. La stiamo ascoltando qui per i nostri ascoltatori, la stiamo regalando agli ascoltatori di Radio Panorama e dell'Onda in Onda. Senti, nei tuoi pezzi, nei tuoi 11 pezzi, pensi che ci sia più quello che c'è dentro di te, quello che hai vissuto al di là del posto in cui ti trovi? Perché torno a dire che secondo me Roma è una città che segna chi ci vive e chi ci passa per caso. C'è molto, molto più di te, di quello che hai dentro, oppure molto ruolo gioca anche il fatto che tu ti trovi in quella città, quindi tutto quello che comporta essere una città come Roma, da cui esce arte da ogni lato, escono emozioni, colori forti, tutte queste cose qua secondo me segnano nella creazione di un prodotto, di un album, di questi pezzi? Anche questa è una gran bella domanda. Non so, cioè, nei pezzi c'è sicuramente tantissimo di me. Scrivo di quello che conosco e quello che penso di conoscere sono i rapporti umani, quindi di qualsiasi genere siano, dalle relazioni sentimentali ai rapporti con la famiglia, con le amicizie. Non so quanto Roma mi abbia influenzata, ma io, sai, non sono molto mondana, quindi tenderei a dire poco. Ah, ok, diciamo che comunque non sono molto casalinga, quindi diciamo la scena artistica di Roma comincio a seguirla da poco, veramente poco. Ah, quindi diciamo che tu molto più quello che hai dentro. Senti, una domanda, di cosa parla Hopefully? Hopefully parla, è il singolo, appunto il primo singolo estratto dal disco, e parla della vita di una relazione. Sì. E del momento, appunto, quello in cui si sente tutto il rischio, diciamo, dell'affidarsi a una nuova persona. Dell'inizio di una nuova storia, certo. Esatto, però c'è anche, appunto, la voglia di viversi questa cosa fino in fondo. Non ho voluto dare una soluzione nel testo, perché prima di tutto non ne avevo una all'epoca, e poi comunque volevo più sottolineare il paradosso del momento, ecco, tra la voglia e la paura. Perfetto. Della cosa. Mi viene da chiederti, allora la soluzione adesso ce l'hai? Hai detto all'epoca non ce l'avevi, quindi adesso forse ce l'hai. Comincio a pensare che forse ancora non ce l'ho. Pensavo di averla, forse allora, ancora non ce l'ho. Continuiamo ad ascoltare allora Hopefully. Anzi, noi faremo ascoltare. No, dico, continueremo. Guardo il regista che mi dice: no, ancora non l'abbiamo ascoltata. Dico, continuiamo ad ascoltare Hopefully, da quando ora l'ascolteremo per la prima volta, in attesa che tu trovi magari questa fantomatica soluzione. Livia, noi ti ringraziamo. È stato un piacere averti qui ospite. Come senti, parte anche la ola in sottofondo. Ti auguriamo un grande in bocca al lupo da parte di tutta Radio Panorama e l'Onda in Onda, e adesso noi ci ascoltiamo proprio Hopefully di Livia Ferri. Ciao. Ciao. Ciao. I'm sorry but I think I feel your feelings turning by. Maybe I keep behaving like this life wasn't even mine. And it takes a while at a time for me to get back into your eyes. Myself assaulting you with all the apologies, with all the fears and scars that lately I've been calling signs, and still I hope you feel this will just choose my so it's like this, and it's so real. Eccoci qui in diretta. Abbiamo appena ascoltato questo pezzo di Lidia Ferri, Hopefully, che è stata ora ospite proprio qualche minuto fa con noi. Per chi si fosse collegato solo adesso, sono le 19:17, o se siete in replica in ascolto circa l'una della notte. Andrea, perché ridi? No, perché mi ero estraniato. Sì. Quindi mi aspettavo che tu dicessi è stata ospite con l'onda in onda, senza pensare che c'ero io dentro. Quindi ho detto con noi, ma noi chi? Cioè niente, mi sono un po' estraniato da solo e quindi mi sono messo a ridere come un pazzo. Non avete bevuto troppo, è realmente Andrea che sta parlando così. Io invece sono Antonio, dall'altra parte c'è sempre Brumma. Allora, prima del prossimo ospite che sta già scalpitando, volevamo dire una notizia importante. Cosmetici, finalmente lo stop ai test sugli animali. A quanto pare dall'11 marzo 2013 scatta il divieto assoluto di vendere o importare prodotti o ingredienti cosmetici ancora testati sugli animali. Uno stop atteso da tanto, dicono alcuni, troppo tempo. E quindi questo volevamo darvene notizia. Come dicevo, sta scalpitando, quindi Andrea, tu ballo a chiamare, io lo presento. Come dire, lui da circa 3 anni, già lo vedo che sta entrando alla porta, sguardo serio come sempre, da 3 anni è nostro ospite fisso, per fortuna, perché avere ancora persone, quelli che si possono definire veri e propri idealisti, in questo mondo così materialista e consumistico, non è facile. E lui è uno dei pochi, forse l'unico, in Sicilia, in Italia, in Europa, che crede fermamente nei valori del comunismo. Lui, direttamente da Regalcioffoli, in provincia di Rocca Palumba, a rappresentanza del collettivo Giancarlo Mattello, è il grande, unico Fidelio Cusimano. Immenso Fidelio, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi radioascoltatori dell'onda in onda di Radio Panorama, questa radio comunista che ci accoglie, noi del collettivo Giancarlo Mattello. Ma noi veramente non siamo comunisti, accogliamo anche le voci comuniste. Vabbè, non lo dite in diretta, immagino, ma noi lo sappiamo molto. Avete una specie di catalogo. Abbiamo appurato i nostri servizi segreti. Addirittura della Deder. Della? Deder. Deder. Deder. Quant'er? Ma, se Urz. Ma non riesco neanche a chiedere, quant'er? Non si sa. Tante. È un segreto. Noi pensiamo mille. Miller. Torniamo ai famosi numeri biascicati. Ma Deder per cosa sarebbe Deder? Per la Repubblica. No, Deder ha detto. Per Deder. Ah. Dedalo. Dedalo. Dei. Rivolto. Questo è Razzol. Dedalo? Questo che ha detto? Sembra una partita di Razzol. È Razzol. Dedalo, dado, loda. Guardi, lode. Lei non dice mai che noi veniamo qui per sponsorizzare il nostro ma film. Ma noi chi? Noi del collettivo Giancarlo Mattello. Ma è sempre lei che viene. Ma noi io rappresento gli altri. Ah, e quindi possiamo usare un plurale. Maiestà? Maiestatis. Bravo. Con tante S. No, no, no. Sa quante? No, io credo una. Tante. Mille. No, mille no. Scusi, mi è venuta voglia di me. Allora, noi del collettivo sì. Universitario Giancarlo Mattello, intanto vogliamo dire grazie a tutti quelli che hanno sottoscritto l'abbonamento col collettivo Giancarlo Mattello. Si sono fatti marchiare a fuoco, la falce e martello sotto il polso. In ogni caso, ricordiamo che su Regalcioffoli è aperto la nuova arena dove proiettiamo i nostri film neorealisti, sì. E facciamo la nostra rassegna culturale. Ecco, per esempio, con l'assessorato film? Alle politiche culturali di Regalcioffoli, che si occupa appunto solo del Cineforum, questa nuova attività mai creata dall'uomo, abbiamo pensato, inventata noi e esportata nel passato tramite la nostra macchina del tempo. Cosa succede? L'abbiamo inventata, tra l'altro lei ne saprà qualcosa di questa macchina del tempo inventata noi per far recedere il Cineforum a tanti anni fa, ma in realtà l'abbiamo inventato noi, adesso, ieri. Ieri? Ieri. Proprio questo iato che viene portato all'assoluto. Ieri. Ieri. Io infatti sono... Io vorrei imparare a dire in ieri. In puntata, anni fa, ma in realtà l'ho fatto da domani, lo farò. Perché lo facciamo, abbiamo fatto con questa macchina del tempo. Un il po' strana. Sì, si dilata, si restringe un po' dilata, come volete voi. Quindi non voi... lo so, noi siamo un po' dei pazzi in questo collettivo. Vorrei dire che il film che presentiamo oggi l'abbiamo creato noi. Abbiamo portato l'idea, no? Sì. A questo regista del 1920. Abbiamo voluto fare un omaggio alla vostra radio, la vostra trasmissione. Ah, e come si chiama il film? L'onda in onda. No. Wow. Sì. Ragazzi, ma qua ci stava applauso. Wow. La onda. Ola, la signora del piano di sopra, l'orgasmo, tutto. Ci no. voleva tutto. Guardi, sì. Noi non ci importa. Va bene anche che voi ci lasciate parlare di questo film. Allora noi con questa macchina del tempo abbiamo portato l'idea, no, di questo nome a questo regista famosissimo. L'anonimo veneziano. L'anonimo veneziano? Addirittura. C'è proprio lui? Lui. Ma com'è possibile che fa il regista? Io non lo sapevo. Lui fa il regista, anche sceneggiatore. Insieme a me. Maestro della fotografia. Insieme a... come si chiama quello? Madre. No, quello russo, lì, quello nella stepa. Medvedev. Medvedev. Il come se lo chiamassi premier russo Medvedev. Ma lo chiamo, sei? Lo chiamo non, ogni non giorno. Ma lui non risponde. Medvedev. Medvedev. Lui lo sentiamo sempre. Sì, torniamo però non ci allontaniamo, che il pubblico non capisce. Allora, l'onda in onda film, questo film che proietterete girato in bianco e nero. In bianco e nero 1920. Ma poi com'è che l'avete, se l'è ancora qui vivo? Lo hanno girato. Lo hanno girato, però ma noi sempre... abbiamo portato la pellicola, ah, quindi l'avete non è nemmeno rovinata. Non l'abbiamo portato con la nostra macchina del tempo. Ah certo. Un l'abbiamo po' come indietro, Jurassic Park, diciamo. Sì, questo film è bellissimo. Il regista ha voluto fare una ricorsività, che c'è nel nome, l'onda in onda. Certo, che ha ritorna filmato, sì, con due pellicole diverse, poi sovrapposte due onde in due punti del mondo diversi che si congiungono per ore. Bellissima la scena neorealista dove si vede il comunismo, un pesce che spunta da un'onda e il regista magistralmente lo fa riapparire nell'altra onda. Io potrebbe ripeterlo con, scusi, ecco, potrebbe ripeterlo con un altro sottofondo. Forse il regista ha capito cosa mette. No, non lo ha capito, perché era nella prima finestra in alto il a destra, pesce. Ecco, in alto a destra. Un cosa attimo, vuole sapere? Mi devi dire. Quindi, dopo che vengono inquadrate le due onde, Fidelio, che succede? Un pesce. Lo dica con la giusta lentezza. Ma io parlo così, sono del collettivo Giancarlo Mattello, dovrebbe saperlo. Sì, più piano. Saperlo. No, non so saperlo, dico andando avanti vado un po' più piano. Più piano. Il pesce. Il pesce. Cosa fa? Esce da un'onda. Il pesce esce. Da un'onda. Potrebbe essere un'idea per un film. E si entra nell'altra onda. E si entra. Cioè lui si invagina. Ed sì, entra nell'altra onda. Mi scusi, e le due onde, com'è che da due parti del mondo il pesce riesce a passare da una all'altra? Questa è un fotomontaggio. La metafora neorealista. E qual è il dell'anonimo messaggio dell'anonimo che veneziano? Il comunismo passerebbe come passa da popolo in popolo, da un'onda in onda. È incredibile la metafora di questo regista. Noi abbiamo detto, ma perché non gli diamo noi la metafora al regista, no? Del collettivo Giancarlo Mattello. Abbiamo discusso nel collettivo. Ovviamente mi rimette per favore la nostra musica. La musica di tutti, scusi, i comunisti, scusi, grazie, scusi. Vorrei anche smettere, grazie. Abbiamo discusso nel collettivo, abbiamo discusso si torna all'internazionale nell'università, la nostra università, che è il mondo, ovviamente siamo tutti fuori corso nel collettivo Giancarlo Mattello, che dovrebbe saperlo. Abbiamo discusso come dare la metafora a questo regista. Siamo tornati indietro nel tempo e l'abbiamo data secondo quello che le ho appena detto, e lo sa quando gliel'abbiamo data, dopo questa trasmissione. Cioè, nel senso, io andrò adesso nel passato a dire questa metafora al regista e farò il film. Tutto questo ancora non è successo. Faccia conto che noi andiamo in replica dopo, ma io già lo so, no? Ma lo so anch'io che andremo in replica. Ma io l'ho già vista. La replica? Esatto. Cioè, lei sa già anche quello che faremo tra mezz'ora. Tutto. Con la nostra macchina del tempo inventata coi fondi dell'università. Le vostre tasse, le tasse capitaliste. Senta, ci annuncia il prossimo pezzo. Ma so già cosa verrà, quindi perché dovrei annunciarlo? Ah, quindi lei sa già cosa ascolteremo adesso. Ascolteremo i Green Day con Stray Heart. Grazie. Incredibile. Saluti a tutti. Viva il comunismo. Viva la libertà. Sempre. Viva Fidel. Cover, baby, oh, you're the only one that I'm dreaming of. Your precious heart was torn apart by me and you. You're not alone, oh, and now I'm where I belong. We're not alone, oh, I'll hold your heart and never let go. Everything. love you. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E diamo il benvenuto a Marco. Ciao Marco! Ciao meravigliosi, no, come state? Ma sei te il meraviglioso, non ci puoi fare questi complimenti tu che sei veramente l'altissimo. Questa è tutta per te. Marco, gli spalti in festa per te, vai Andrea. Come stai e soprattutto che film ci porti oggi? Cioè come stai, ce l'hai detto, ma che film ci porti benissimo, oggi? Benissimo, come sempre, come tutti i mercoledì, quando diciamo posso condividere con voi queste esperienze cinematografiche, diciamo, assolute. Allora, come ti senti di stare fra poco? Ma la grande, insomma. No, male, io pensavo che volessi punirti e star male. Ma per me, cioè, ah, ma già per te è la tua natura. Hai ragione, è la tua natura. Di che film ci parli oggi? Noi abbiamo dato un'anticipazione, come sai, ma dillo per chi se lo fosse perso. Stasera c'è un film horror che si chiama Delirio di Sangue. Veramente il delirio. Il titolo dice già tutto. Sì, insomma, già a metà dell'opera si capisce dal titolo. Raccontaci un po' questo capolavoro. Allora, il lungometraggio parla di un pittore misantropo e un po', diciamo, maledetto, che, diciamo, dopo la perdita dell'amata moglie pianista che lo ispirava, diciamo, nelle sue composizioni, perde completamente la bussola e diciamo, impazzisce sempre di più, fino a quando incontra una giovane donna che ha le sembianze della moglie ed è anche lei pianista, e quindi diciamo riesce, diciamo, a portarla a casa sua, diciamo, per ricominciare a dipingere, ma ormai, diciamo, il delirio di follia in cui è caduto il pittore è un vortice senza fine, e quindi abbiamo una serie di ammazzamenti, stupri, scene di necrofilia un po' così appese al nulla, un po' messe così per, diciamo, per far vedere un po' le scene scabrose, che diciamo poi portano un po' al finale catartico, nel quale il pittore trova la morte schiacciato completamente dalla casa in cui vive, diciamo ormai maledetta da tutti gli omicidi che ha compiuto. Senti, omicidi, diciamo, che vengono compiuti dal suo maggiordomo, perché come nelle migliori sceneggiature, diciamo. Scusami, ti sento un po' male. Come nelle migliori sceneggiature, l'omicidio è fatto dal maggiordomo. Ovviamente, perché praticamente al pittore interessa in realtà il sangue delle vittime per dipingere i suoi meravigliosamente brutti quadri. Sì. Tra l'altro, stiamo vedendo nel tuo sito filmbrutti.com, dove parli di questo film, il quadro. Ma io vorrei capire di Satana che genera l'universo. Cioè, che è una cosa veramente inaccettabile. Orribile, cioè orribile. Cos'è? Satana che scorreggia, non si capisce questa domanda. Sì, ma lo senso è questa specie di chiappe femminile con questo diavolaccio. Ma è improponibile. Ma poi zucchero filato. C'è una piega strana, sono due gambe. Sembrano. È come una sola piega. Ma sono due gambe da un lato e uno dall'altro. Ma che cos'è? Ma sembra sia una specie di ammucchiata finita male. Sì, è una ammucchiata, ma malissimo, perché di uno è rimasto solo una gamba, tutto il resto è noia. Esatto. Cioè, non c'è nulla. Esatto. Con dei salmoni che sembrano. Sì, delle anguille che escono dal. Ma poi una parte. Una chiappa in necrosi, guarda, è sul grigio. È strana, veramente un'immagine che ci manda in delirio. Non vediamo l'ora di vederlo totalmente. Assolutamente. Senti, una scena clou. Ma sicuramente c'è forse la scena iniziale è quella in cui questa ragazza, diciamo, che appunto ha le sembianze della moglie defunta, praticamente riceve una specie di apparizione vocale, cioè una misteriosa voce che dice che è un'altra parte di se stessa e che lei vede, vaneggia di un futuro che lei, diciamo, dovrà vivere, il tutto condito da un'apparizione di luci strane, di strane palle luminose che poi danno vita ad una sequenza che oserei definire anche disergica da un certo punto di vista, completamente delirante. Che non c'è, appunto, con delirio eccetera, ma mi sa che di sangue c'era poco nella scena iniziale. Per la regia di chi questo film, soprattutto se possiamo accennare, magari è un regista famoso. Sergio Bergonzelli. Non mi è noto. Sì, non neanche a me, però il nome mi ispira. Il nome è abbastanza ispirato. Son Bergonzelli. Ha fatto altro questo Bergonzelli. Ma per quanto riguarda film brutti, no. Posso dire che questo è la sua prima. L'opera omni, cioè l'opera massima. Omni, esatto. Cioè, diciamo, è proprio il punto clou della sua carriera. Senti, con cosa accompagniamo? Se i nostri amici all'ascolto vogliono, ad esempio, stasera vedere, scaricare legalmente, acquistare in qualche modo. Ma chi se ne frega? Secondo me sì, qualcuno. Delirio di sangue. Delirio di sangue, con cosa potrebbero accompagnarlo, diciamo, gastronomicamente? Io lo accompagnerei con delle ottime patatine alla pancetta della marca Pepis Lorenz, che è una marca tedesca, e voi sapete, i tedeschi quando decidono di fare una cosa la fanno bene. Sì. Ed è una patatina alla pancetta che esalta alla massima potenza tutte quelle che sono le caratteristiche delle patatine alla pancetta, ovvero il puzzo di cane morto quando le apri e poi chiaramente l'untuosità, diciamo, quando le maneggi. Quando le ha, diciamo, messe nel cavolare. Sì, anche l'alito soprattutto è famoso, perché durante la visione del film, dopo che le mangiate, dici: cara, hai paura? E lei muore davanti, perché lei è appena alitato in faccia. Soprattutto dopo aver visto il quadro del diavolo che crea l'universo. Io questo lo faccio. Io questo me lo ingrandisco, lo metto nella nuova casa. Questo giuro. È bellissimo, ragazzi. È molto bello, molto bello. Senti, io vedo che il film ha una reperibilità bassissima nel vostro come sito, le patatine, quindi, come le patatine. Quindi spero, insomma, che la gente riesca a trovarlo online o, insomma, in qualche videoteca di queste brutte dove si fustigano quando entri all'ingresso. Testa la fustigazione. Marco, noi ti ringraziamo per questa bellissima recensione. Ci sentiamo la prossima settimana. Ma se vuoi aggiungere qualcosa, se mi permettete volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia moglie. Ma sì, ma certo. Ma sì, sì, dai, dai, dai, dai, dai, ce l'abbiamo una canzoncina. Qualcosa. Non abbiamo tanti auguri, vabbè, niente. Tanti auguri a chi tanti amantia. No, tanti ma magari auguri. No. Cioè, vabbè, in campagna. No, gli allora, amanti a Marco, no. Allora, tanti auguri a te. Come si chiama? Non mi ricordo il nome. Sheila, si chiama Sheila. Allora, Sheila, tanti auguri dall'Onda in Onda e da Radio Panorama. E mi raccomando, continuate a guardare film brutti. Cioè, hanno bimbi belli. Mi piaceva fare questo. Grazie mille, ragazzi. Secondo me sì. Va bene, Marco, noi ti ringraziamo come sempre. L'appuntamento è come al solito, è mercoledì prossimo. E buon fine settimana di autopunizione. Noi e buon compleanno a Sheila. Assolutamente. Ancora. Per te, Sheila, e tutti gli ascoltatori, ci ascoltiamo gli M.O.P. con Ant Up. Ciao. Ciao, ragazzi. Just outside, you know what I mean? Fake niggas, get the fuck out and hold on to your shit, you know what I mean? Fun flex, one time for your motherfucking mind. One. Take names off, take things off, take chains off, take rings off, blinks, lists, and yap, fame came off. And yeah, anything off, throw what you want, we stifling fools, throw what you want, your life or your jewels, the rules, back with that, next thing. A slave, keep a rugged dress code, always in distress mode, that shit gon' send you to your grave, so, you think I don't know that, nigga hold that, nigga hold that, nigga hold that, from the street cousin, you know the drill, I'm 999 flies short of a mil, yeah, that fool, kidnap that fool, it's the perfect timing, you see the man shining, get up off some goddamn diamonds, huh? Tornate in diretta, mentre intanto entra un ascoltatore dalla porta, lo salutiamo, buonasera. E volevamo fare un po' di saluti. Brummo, tu chi devi salutare? Vedo che sei... Guarda gli occhi a cuoricino. Devo salutare Eleonora. Chi è? È mio fidanzato. Salutiamo tutti quanti Eleonora. Va bene, passiamo. Ma non ho finito, devo salutare anch'io, prima di finire la classifica. Io devo salutare invece la signora... Tant'è che mi sbaglio e mi scordo il nome. No. Credo... Non puoi. Aspetta. Non puoi, ma scrivi. Credo Rosa. Ma dai, ma non puoi andare allora, la signora credo Rosa. Di sicuro la signora Agnello, Miss Slam. Però non ricordo in questo momento. Sì, e poi saluto anche la figliola che si chiama Stefania. Insomma, sì, una ragazza che... Sì, cioè, vabbè, mi piace. Se stai a provare. Se stai a provare. Oddio, già ci ho provato, ci sono riuscito. Ah, saluta la mamma, il bello è saluta prima la mamma. Quindi attenzione, adesso tutta l'onda in onda è accasata. Attenzione, vabbè, è fatta. Allora, continuiamo la nostra classifica dei 10 modi per festeggiare dopo aver passato un esame. Al settimo posto, tipo Giovanni in Tre uomini e una gamba. Hai preso 30, il primo della tua vita. Anni di vessazioni e di sensi di inferiorità nei confronti dei fuoriclasse dei libri ti riaffiorano la mente e non ti contieni più. Tutta la tua competitività viene fuori e la vomiti in faccia al secchione che odi con tutto il tuo cuore. Non importa che anche lui abbia preso 30, non importa che tu rimani sempre 7 esami dietro di lui, non importa che tu sia al sesto anno fuori corso. E poi passiamo invece al sesto posto. Il tipo Bagby di Trainspotting. La bevuta al pub con gli amici è un grande classico. Selezionate bene, in tempo di crisi non potete sfatare invitando mezzo mondo, ma comunque lo zucchero duro deve essere presente. Reso conto degli eventuali elementi commedia della giornata d'esame, volemose bene, aneddoti leggendari come se piovessero. Un giorno di birra, un giro di birre, due giri, tre giri, e va a finire che non sapete più contare, anche se avete appena dato analisi 2. Come ogni sbronza che si rispetti, dovete fare una cazzata. Messaggio rabbioso e penoso alla tua ex. No, fate scoppiare una rissa. Certo, molto meglio. Andiamo alla posizione numero 5, tipo gli sciabolatori. Chiunque stappa una bottiglia, pochi la sciabolano. Ma che cos'è sciabolare? Quando prendi con la sciabola e fai fap, è che tagli il collo della bottiglia. Se siete pacchiani dentro e volete risultare maestri d'eleganza, basta uno champagne, non lesinate, e una sciabola ben affilata. Puntate la bottiglia verso uno spazio aperto e fate saltare il collo con un colpo secco di sciabola. Shua! La difficoltà sta nel non far cadere nella bottiglia alcuna scheggia, che non sarebbe proprio piacevole da mandare giù. Un'emorragia interna pare possa concretamente rovinare la vostra festa. E passiamo subito alla posizione numero 4 per lasciarci il podio alla fine. Tipo i nostri eleganti parlamentari. Se siete vergognosamente poco rispettosi delle istituzioni dello Stato e avete una faccia tosta proverbiale, prima di andare in università passate dal supermercato. Spumantino da 1,20€, un etto, fatto un etto e mezzo, lasci, di mortazza, e con meno di 3€ siete pronti per il vostro esame e per un banchetto che pochi possono permettersi. Economico, gustoso e fa curriculum nel caso vogliate un giorno scendere in campo, come dice Monti, salire in esatto. campo. E questo tra l'altro il quarto posto è dedicato al, diciamo, alla reazione che ha avuto Nino Strano quando ha festeggiato la caduta del governo Prodi. Noi salutiamo il senatore, l'ex senatore Nino Strano, con cui tu hai avuto anche un bel rapporto. Ho avuto una querela. Sì, una querela. Strano. Era finita bene. Ma diciamo, è finita bene. L'abbiamo sputtanato nei giornali. Grazie Nino. Se ti ha sentito, vi risentirete ancora. Esatto. Direi che possiamo passare al prossimo pezzo. Sì, e poi ritorniamo per la classifica finale, gli ultimi 3 posti della nostra classifica. E saluti, perché sta finendo la puntata, ma restate con noi. Status quo con Down Down. Ed eccoci qua dopo l'ascolto di Down Down degli Status Quo. Sono sempre no, perché non è che capita che tutti i minuti siano uguali. Sono le 19.55 e noi siamo sempre in onda dagli studi di Radio Panorama qui a Termini Imerese per l'Onda in Onda. Io sono Antonio, lui è Andrea, l'altro è Brumba. Tutti i minuti non sono uguali. No, perché io sto dicendo sono sempre Antonio, potevi dire. Beh, vabbè, capito, ma quando Gero è partito, per dire, sono sempre le 19.55, le mie sinapse non sono state in grado di frenare in tempo. Hai ragione. E quindi è successo. Sono a schiantare. Quello che è successo. Allora, torniamo alla classifica. Siamo sul podio. I 10 modi per festeggiare dopo aver passato un esame al terzo posto, tipo Rupert Chiamenna, per chi guarda, conosce i trailer di Maccio Capatonda, no? Esatto, quei famosi trailer che partirono come, diciamo, corollario di Mai Dire, dei Mai Dire lunedì, e poi adesso loro sono passati a lavorare con lo Zoo di 105, Flop TV, poi sono andati anche su DJ TV, se non sbaglio, con le strisce quelle di Intralci, sì. Insomma, hanno fatto un po' carriera. Allora, siamo qui tipo Rupert Chiamenna, quindi metodo consigliato a chi è bauscia fino al midollo, a chi abbia quantomeno un animo un po' da pappone. Se vivi nel mito del self-made man, nel tuo gota non manca certo il mitico Rupert, l'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo che tutto può, l'uomo che non deve ringraziare nessuno. Unica eccezione, la mamma. Non perché ti abbia sostenuto durante i mesi di studio o perché ti abbia inamidato i polsini e il colletto della camicia, ma semplicemente perché ti ha fatto nascere. Da quel giorno tutto ti è dovuto, anche il 18 politico. Eh sì. Ma andiamo subito al secondo posto, anche se io mi chiedo sempre perché si dica inamidare i polsini o inamidare il colletto. Non lo so, chi è esperto di amido? Chi è esperto di amido possa chiamare. Sì, insomma. Ad esempio Vivi, io saluto la mia carissima amica e collega Vivi, che ci sta ascoltando da qualche minuto. Ti chiedo se sai perché si dice inamidare i polsini e il colletto della camicia. Teoricamente dovremmo dare noi le risposte, invece noi facciamo le domande. Chiediamo. Sì, vabbè, ma è giusto. Noi siamo alternativi. Noi siamo radio alternativa. Ma noi siamo tre contro un popolo di ascolto di milioni di ascoltatori. Sì. E quindi dobbiamo sapere da loro qualcosa in più. Al secondo posto della classifica dei 10 modi per festeggiare dopo aver passato un esame abbiamo al secondo posto appunto il tipo samurai. Donne e uomini di poche parole, ecco come dovete festeggiare. Questa tradizione nipponica risale agli albori della civiltà del Sol Levante. Si narra che in seguito all'arakiri del nemico, l'arakiri cos'è? Il suicidio rituale utilizzato per sfuggire a una morte disonorevole. Sì. Il samurai vincitore si dice che compisse questo rituale noto come come segno di gaudio dello spirito, com'è? Bravo, siete che giapponese. I valori racchiusi in questo ermetico festeggiamento sono inestimabili. Ma io non lo farei proprio da secondo posto, ma vediamo, rullo di tamburi al primo posto. Tipo Carlton Banks. Cos'è? Chi è? Leggilo tu. Ma allora, sveglia alle 6. Come chi è? Ma stai scherzando? Carlton Banks. È quello di 8 sotto un tetto. Ma che cosa stai dicendo? Ma si era per dire, non so, l'immagine. È il cugino di Willy, il principe di Bel Air. Porca miseria, l'avevo sbagliato. Cioè, si può sbagliare, figa. Cioè, ma sì, fai veramente schifo. Sveglia alle 6, treno malodorante, metro affollati, ha pure iniziato a piovere nell'ultimo pezzo che vi tocca fare a piedi dalla fermata all'università. Sono 6 mesi difficili, avete passato notte insonne e sfiorato l'ulcera a furia di caffè. Domanda 1, la so. Domanda 2 la so. Domanda 3 la so. Daddio. Avete vinto. Ora tornate a casa, mettete su Tom Jones e chiudete gli occhi. Il resto verrà da sé. E questa era la classifica dei 10 modi per festeggiare dopo aver passato un esame. E ci vuole l'applauso del pubblico. Yeah. Fate un in bocca al lupo a me e io farò un in bocca al lupo a tutti voi che dovete passare un esame per festeggiare tipo Carlton Banks, anche se non riesco a dirlo molto bene. Carlton. Sì. Sai, devo dire una cosa. Sai cos'è? Che io quando pronuncio il nome Min Carlton, Purtroppo l'ha detta. Prima di chiudere, voglio dirvi una cosa interessante. Voi lo sapevate che i cinesi non dicono I love you? Se voi gli dite I love you, che in cinese si dice wo ai ni, vuol dire ti amo, loro rispondono, la risposta più comune è: cosa vuoi? Ti senti male? Un contadino, dopo che la figlia era andata, insomma, un po' si era metropolitanizzata, e gli aveva detto al telefono wo ai ni, lui gli ha risposto: sì, ancora 6 mesi, e il vicino ci presta i soldi e tu ti puoi rifare le palpebre. Cioè, non so se vi rendete conto, loro non dicono ti amo. Su questa cosa riflettete un po', non so come si diranno che provano qualcosa l'un per l'altro. E insomma, noi vi lasciamo su una musica molto dolce. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Lui era Andrea. Lui era Antonio, lì dietro c'era Bummo, e noi vi salutiamo, ci vediamo mercoledì prossimo, oppure in replica a mezzanotte. Ciao. Vi lasciamo con Adele. E Skyfall.